Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sono le poisson, come amo le poisson, darmi a pesci e servirmi che bontà. Io gli stacco la testa, gli stacco le spine, ma oui, ça c'est toujours joli. Le poisson. Allora, questo è il cuoco del cartone La Sirenetta. Mi aspettavo che i nostri assistenti al programma scegliessero Ratatouille. Cioè, poi come l'ho pronunciata io neanche voglio... Della serie non siamo mai contenti, ma no. Adesso la cerchiamo nel corso della trasmissione. No, ma non è che non siamo contenti, sono rimasta colpita così, perché non mi veniva immediato di scegliere questo cartone. Mettiamo sono un po' indietro. Ratatouille, dai, che è il suo preferito. Allora, chissà in ogni caso l'uno o l'altro se potrebbero essere accolti questi cuochi protagonisti di queste celeberrime scene cinematografiche e cartonistiche nel nuovo ordine dei cuochi che è nato proprio ieri a Firenze, cara Nicoletta. Vedi, io vado a Firenze e guarda quante iniziative sbocciano. Ma sei andata a fare la madrina all'ordine dei cuochi e non me l'hai detto? Mi sarebbe molto piaciuto. Non ci hanno pensato. No, siccome ci ascoltano tantissimi cuochi, perché c'è anche il tuo amico Andrea Ribaldone, quindi molti seguono le tantissime ricette che abbiamo elargito a piene mani, soprattutto quando abbiamo fatto, ricordiamoli, il semestre ricchissimo di idee con Expo. Allora, volevo così un po' raccontare agli ascoltatori che si tratta di un'organizzazione autodisciplinata per promuovere l'innalzamento degli standard qualitativi, la formazione continua della categoria e il confronto sugli sviluppi della professione. Quindi, tema molto interessante, nasce questo ordine dopo tutti questi show cooking che vediamo in giro per le città, oltre che in televisione. Insomma, forse magari una disciplina ci voleva, che dici, tutti fanno i cuochi adesso... No, l'idea mi piace molto, mi piacerebbe anche invitare qualche cuoco che partecipa a questo ordine, che fa parte di questo ordine in diretta, quindi se fate parte o farete parte di questo ordine, 800 24 00 24, venite a Cuore Denari. Esatto, ma noi facciamo anche un'altra cosa, facendovi utilizzare il nostro numero verde oppure l'altro numero con il quale potete mandarci dei messaggi, 349-238-6666. Vi chiediamo chi nella nostra famiglia, nella vostra famiglia o tra i vostri amici meriterebbe di essere iscritto d'ufficio a questo ordine dei cuochi e per quali meriti. Io scriverei Nicoletta per tutte le torte con le farine speciali che prepara, per tutte le ricette che le ho dato e che non ha seguito. Mia mamma per la crostata e i vinci sgrassi e mia sorella per le marmellate. E voi 800 24 00 24, 349 238 6666. Andiamo? Dove vuoi andare? Andiamo alla nostra rassegna stampa. Andiamo. Allora direi cosa che possiamo... Cosa bolle in pentola che dalla borsa oggi abbiamo delle buone notizie. C'è una situazione assolutamente positiva fra gli indici europei. Prima di darvi le prestazioni degli indici europei, vi ricordo però che tutto questo slancio stamattina è ancora riconducibile all'effetto Trump, cara Nicoletta. E insomma, molti si chiedono cosa sta succedendo. Il mercato americano brinda ogni giorno c'è un nuovo record. E ieri sera i record non sono stati toccati dai principali indici, dal Dow Jones, dallo Standard & Poor's e dal Nasdaq, non ridere, e noi sappiamo perché, ma anche da un altro indice che è molto meno citato ma è altrettanto importante. Si chiama Russell 2000. Non so se non dirlo, non è Bertrand Russell, no. Non è lui, non è un filosofo, però... è tutto finanziaria la faccenda. Ma magari ci lancio un altro quizzettone prima di dire che cosa c'è dentro questo indice. Lo sapete? Che cosa abbiamo? Aspetta, prima di lanciarmi. Ecco, è già partito. Mica lo cogli in castagna l'amico Fritz. Mannaggia mia. Ecco. Carmels. È rappresentativo di quali società questo indice? Il primo che risponde regaliamo così, qua seduta stante un libro, il primo che troviamo sulla scrivania di qualche collega, lo regaliamo. Volentieri. 800 24 00 24 per risponderci. Intanto l'Europa, Parigi più 0,8, Francoforte più 0,48, Londra in rialzo di un punto e Milano guadagna 2 punti percentuali. Sei contenta? Molto. I migliori titoli: Enel più 4 punti, sta presentando a Londra il suo piano industriale, oggi è l'Investor Day. Generali più 3,74, titolo molto penalizzato nelle ultime settimane senza ragioni precise, forse per il fatto che ha delle obbligazioni subordinate di Monte dei Paschi e dovrebbe convertirle in azioni, non sa come fare, potrebbe diventare un azionista importante. Intesa San Paolo più 3, Pop Milano più 3, Banco Popolare più 3, Popolare dell'Emilia Romagna più 3, Unicredit più 2,75, vanno bene anche tutte le altre banche stamattina. In negativo invece abbiamo di nuovo Azimut, -1,69%. Ieri il gruppo era stato fortemente penalizzato a causa dello stacco di una, di una cedola di un dividendo molto consistente. Oggi invece torna a non trovare appunti di riscontro del mercato. In male anche Recordati, -1,70%. Salvatore Ferragamo, -0,9%. Tokyo stamattina è andata pure bene. Peraltro Nicoletta, gli analisti dicono non si è spaventata per il... nuovo terremoto, per il rischio tsunami. La finanza appunto va per conto suo e l'indice giapponese ha guadagnato lo 0,3%. Stamattina si rafforza anche l'euro e sul dollaro vale 1,0644. Sono già arrivate delle risposte? Allora sì, sono arrivate delle risposte, ma alcuni ascoltatori al 349-238-6666 mi chiedono di farti ripetere il domandone. Pronta Carmelo? Carmelo c'è. Sotto. Quando parliamo del mercato azionario americano, noi parliamo sempre del Nasdaq, che è l'indice tecnologico, dello Standard & Poor's 500, che è l'indice più importante, del Dow Jones 30. Per quello che riguarda il Russell 2000, che indice è, che società ci sono dentro? 800 24 00 24. Siamo pronti per darvi i nostri libri. I nostri, quelli che ruberemo sulle scrivanie, sì, dei esatto. colleghi. Sì, esatto. Chissà, qua vicino a noi c'è quella di Alessandro Miller, quella di Cruciani, che è pienissima. La cena tanti, poi gli cascano anche tutti addosso. Adesso andiamo a fare la fotografia della scrivania di Giuseppe. Senti, dai mercati andiamo un po' ad un altro tema, sì, molto importante. Andiamo in edicola, dove arriva la guida pratica del Sole 24 Ore, i tuoi diritti, che si occupa di sanità, e questa è un'occasione per raccontare le novità in arrivo per ticket, ricoveri e cure. Noi oggi ne parliamo con una nostra collega, Barbara Gobbi, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi. Ciao Barbara! Ciao, buongiorno Nicoletta e Deborah, ben trovate. Grazie. Buongiorno agli ascoltatori. Grazie Barbara, non rispondere al domandone, ma raccontaci come è costruito questo fascicolo, così lo visualizziamo. Un fascicolo imperdibile. Nel fascicolo vengono riepilogati i meccanismi fondamentali di funzionamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale, compresi i diritti degli assistiti, che ci stanno molto a cuore, certo, specificando le differenze tra anche regime pubblico e regime privato dell'assistenza. Allora, come è articolata la guida? Un capitolo è dedicato al rapporto con il medico di famiglia e con gli specialisti, mentre un altro capitolo si concentra su pronto soccorso e ricoveri ospedalieri. A completare il quadro, necessari diritti dei cittadini, pazienti e contribuenti, altre due parti del volume. La prima è sulla privacy, cioè cosa abbiamo diritto di chiedere e di pretendere. La seconda, gli sconti fiscali per farmacie, ausili, interventi e terapie. E quindi insomma un po' a 360 gradi tutto lo scibile, tutto quello di cui il cittadino paziente ha bisogno, deve sapere per muoversi in maniera informata, certo, e consapevole nella, diciamo, nel vasto mondo della sanità italiana. Basta andare in edicola e su questo fascicolo trovate tutte le informazioni, perché lo ripetiamo sempre qua a Cuore Denari, sì, questo è un tema di Cuore Denari, perché la salute non ha prezzo, questo lo sappiamo, ma la sanità ha un costo. Tra l'altro parliamo di un servizio nazionale, Servizio Sanitario Nazionale, il nostro, che Barbara, vogliamo ricordarlo, è uno dei migliori al mondo. Senz'altro, sì, il nostro Servizio Sanitario Nazionale è tra i migliori al mondo, anche se dobbiamo dire, care Nicoletta e Deborah, che anche qui la crisi economica si è fatta, certo, sentire. Noi veniamo da anni di tagli a posti letto e personale che inevitabilmente poi si sono fatti sentire anche sulla possibilità di accesso dei cittadini alle cure e sulle loro tasche. Però noi abbiamo i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che sono un ombrello che, diciamo, che ci accompagna nella nostra vita di cittadini pazienti, e che sono stati, diciamo, inventati nel 2001 in tempi di federalismo sanitario, proprio per garantire a tutti parità di accesso alle cure minime garantite da nord a sud del paese. E questi LEA avranno nel prossimo anno un restyling. Le novità più attese riguardano i nuovi vaccini, le prestazioni ospedaliere di ambulatorio, anche l'aggiornamento delle malattie croniche rare. Naturalmente trovate tutti i dettagli sul fascicolo in edicola con Il Sole oggi, ma chiediamo subito dopo le informazioni sul traffico a Barbara Gobbi di farci una sorta di bignami. Barbara, rimani con noi, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e ritorniamo con un sunto delle principali novità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. cuore e denari. Novità, novità in arrivo, i LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè i servizi e le prestazioni che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a offrire in via gratuita o dietro pagamento di un ticket, dal prossimo anno subiranno dei cambiamenti. Ce li racconta, ci racconta quelli più significativi Barbara Gobbi, che è in linea con noi. Barbara, ne parlate diffusamente e con precisione, ma intanto quali sono le novità? Più importanti. Le novità sono molte, a partire dalla riscrittura del nomenclatore delle protesi e degli ausili destinati ovviamente a persone che ne abbiano bisogno temporaneamente o in via permanente. Questo nuovo nomenclatore è fermo al 1999, per cui aveva urgente bisogno di essere aggiornato, e d'ora in poi il paziente che voglia ancora il plantare, che è considerato vecchio secondo i nuovi LEA, dovrà ovviamente pagarselo, mentre però avrà accesso a tutta una serie di prestazioni, di ausili high-tech, dai comunicatori vocali alle tastiere adattate per le persone con gravissime disabilità, e dagli arti artificiali a tecnologia avanzata ai sistemi di riconoscimento vocale, di puntamento dello sguardo. Ovviamente sono innovazioni di cui ancora va capita la compartecipazione. Rispetto a queste andrà poi fissato ad esempio il tetto di ticket che il cittadino, di compartecipazione che il cittadino dovrà ovviamente pagare di tasca propria. Dal punto di vista invece della specialistica ambulatoriale si aggiorna anche in questo caso il nomenclatore, che è fermo invece al 1996 e che includerà prestazioni che 15 anni fa erano considerate d'avanguardia e per cui diciamo erogabili soltanto in regime di ricovero ospedaliero. C'è tutto un delisting previsto dai nuovi LEA e che prevede il passaggio di una serie di prestazioni dal regime di ricovero ordinario a quello ambulatoriale. Dammi un esempio. Parliamo di prestazioni anche molto diffuse, come l'intervento del tunnel carpale, come la cataratta semplice, per le quali il cittadino si troverà a pagare un ticket. I nuovi LEA garantiscono a proposito di tunnel carpale, brava, noi pagheremo il ticket, ecco, si può fare prevenzione dato che dobbiamo pagarlo, esatto. Possiamo salvarci in qualche modo, prevenire, che cosa bisogna fare, quali sono i segnali, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, ma Barbara, intanto quindi rimandiamo per le altre novità perché sono tante. Ricordiamo solo che i nuovi LEA inaugurano questa formula reflex di due accertamenti, il secondo viene eseguito solo se l'esito del primo lo richiede, mi sembra una cosa di buon senso, certo. Ma ci sono anche i denari, e volevo chiederti, Barbara, è la donna di denari qui che parla, naturalmente. Ho visto per che quelle... hai fatto un po', è la donna di denari. Sì, certo, cerco di rendere un po' più ammaliante l'argomento. No, Barbara, mi interessava sapere, per le persone che hanno qualche difficoltà economica e per le quali l'esenzione dal ticket sanitario è importante, da questo punto di vista il panorama cambia, ci sono delle novità? Allora, dal punto di vista generale la notizia non è ottima per tutti i cittadini, perché il passaggio dal regime di ricovero al regime ambulatoriale comporterà un aumento del costo complessivo dei ticket, delle spese per ticket che i cittadini dovranno sostenere, e che è quantificato in una stima di 18 milioni di euro in più. Però restano le esenzioni per reddito ed età, le esenzioni per patologia cronica rara, quelle per invalidità e per diagnosi precoce di tumore, così come le esenzioni in gravidanza o per categorie specifiche o per esigenze specifiche, come le esenzioni per il test dell'HIV, per cui le tutele si modificano, diciamo, entrano nuove fasce di tutela e ne escono altre. Questo dipende proprio dallo spostamento di categorie di malattie che vengono spostate, ad esempio passano dalle croniche alle rare, oppure una malattia molto diffusa come l'ipertensione vedrà garantito il regime di esenzione soltanto per le forme che comportano danno d'organo. Ecco. Senti, invece per chi deve andare al pronto soccorso? Per chi deve andare al pronto soccorso, dalla legge finanziaria del 2007 ha cominciato a introdurre un ticket di 25 euro per i codici bianchi. Sì. I codici bianchi, lo ricordiamo, sono quelli che riguardano prestazioni di fatto non urgenti, che sono potenzialmente inappropriate rispetto all'accesso in pronto soccorso. E in ogni caso anche qui c'è una vasta giungla regionale, perché non abbiamo detto fino ad ora che le regioni poi possono applicare i ticket sulla base di una certa discrezionalità regioni e aziende sanitarie. Alcune regioni per il pronto soccorso, per i codici bianchi, hanno introdotto la quota fissa di 25 euro, mentre altre prevedono, oltre al pagamento della quota fissa, anche la compartecipazione alla spesa per eventuali prestazioni diagnostiche di laboratorio o strumentali che siano erogate durante la visita. E quindi è sempre bene al momento dell'accettazione in pronto soccorso informarsi. Esatto, e valutare se si ha davvero bisogno di quella visita immediata, così da... Esatto. Ecco, infatti. Barbara, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, per tutte le altre curiosità naturalmente c'è oggi in edicola la guida. Barbara, tu cucini? Sei brava in cucina? Io sono bravissima, sono umbra e cucino un ottimo ragù. Brava. Cinghiale, che non sono molto dietetici, però. No, grazie. Allora ti iscriviamo ad ufficio all'Ordine dei Cuochi, che è nato proprio ieri a Firenze. Noi ne stiamo facendo. Noi ne stiamo facendo uno parallelo, raccogliendo e facendo un ordine dei cuochi. Non si paga nessuna quota di iscrizione al nostro. Degli ascoltatori di Cuore Denari. Quindi la prima ce l'abbiamo è Barbara Gobbi. Vediamo chi inseriamo cammin facendo, ma ne abbiamo uno. Altro che, c'è la mamma di Mario da Cremona che pure va iscritta ad ufficio. Mario, benvenuto. Buongiorno. Velocissimo, grazie. Ecco, niente, io volevo inserire ad honorem, diciamo, nella nell'ordine lista dei cuochi. Sì. Mia mamma, che ha inventato il tiramisù negli anni 52 a Tolmezzo. Allora, foto, ci mandi delle foto, Mario, perché noi vogliamo documentare questa storia straordinaria. Non so se lo sapessero già ufficialmente i cuochi d'Italia. Non importa, che... per noi il tiramisù l'ha inventato la mamma di Mario da Cremona. Tolmezzo. Ricetta, foto della mamma, la sua foto. Esatto. E Carlo da Carlo da Roma invece che cosa c'è nel Russell 2000, veloce? Nel Russell 2000 ci sono le aziende a bassa capitalizzazione. Americane, bravo Carlo, americane. Un altro premio è partito anche per lui. Dai, un altro libro. Carlo saprà fare anche lui qualcosa, lo inseriamo. Abbiamo tre partecipanti dal nostro ordine. Ottimo. Chiamateci, scriveteci, candidatevi perché chiudiamo alle 12. A tra poco. Ah, Parigi, patria dei grandi ristoranti e dei cuochi più celebri. Barry, due filetti di salmone grigliato. Ho sempre sognato di essere uno di loro. Direte che è un desiderio piuttosto strano per un ratto, ma ho sempre pensato che lavorando solo e con un po' di fortuna, prima o poi il mio talento sarebbe stato scoperto. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. E chissà quante ce ne sono da affittare in Canada con Airbnb, magari tantissime, insomma basta solo dare un'occhiata sul sito veramente davvero celebre, insomma. Che ti piacerebbe andare in Canada? Direi proprio di sì, non ci sono mai stata, quindi ecco, vedi, questo potrebbe essere il nostro viaggio insieme. Del 2017. Ottimo, dai, buoni propositi, fra un po' cominceremo a far fare anche ai nostri ascoltatori la lista dei buoni propositi del 2017, mi metto a dieta, comincio a fare sport, vado in Canada con Nicoletta, chissà quante ce ne sono di idee in programma. Allora, ritorniamo al nostro tema. Vedo già un ascoltatore che vorrebbe intervenire in diretta e chiedere: ma la gente può comunque fare del nero senza denunciare? Ma direi proprio di no, noi lo condanniamo in ogni modo, poi tanto qua in Italia si continua a fare come volete, perché sennò l'evasione fiscale non sarebbe a queste cifre. Tornando a noi, una vera e propria meteora era spuntata come ipotesi l'11 novembre, ma già nel weekend era stata cancellata. Parliamo della cosiddetta tassa Airbnb, che avrebbe riguardato i fruitori del celebre sito dove, come sapete tutti, è possibile affittare abitazioni o stanze per periodi brevi e brevissimi. Ci sono anche altri siti che più o meno fanno questo lavoro. Insomma, in questi casi manca ancora una chiarissima, cristallina modalità di tassazione di questi redditi. Il dibattito è molto aperto, anche perché sono ormai migliaia gli italiani che sbarcano il lunario con redditi guadagnati proprio attraverso questo canale. C'è chi ne ha fatto un vero e proprio lavoro, ma quelli percepiti non sono redditi da lavoro, ma da proprietà. Niente da eccepire, naturalmente il mercato però necessita di norme precise e chiare per tutti, per cui stamattina ci sembra valga la pena fare un punto della situazione sul funzionamento, soprattutto dal punto di vista fiscale, dei contratti di affitto transitori. Tra l'altro, proprio ieri ho letto dalle agenzie che il gruppo Airbnb, che è stato fondato a San Francisco qualche tempo fa, abbia deciso di intraprendere, consapevole un po' della confusione normativa fiscale che c'è in giro per il mondo, ogni iniziativa necessaria per siglare accordi fiscali con 700 città in tutto il mondo, in modo da mettersi al riparo da eventuali futuri cambi di regole e regimi di tassazione. Qualcosa, insomma, di simile a quello che potrebbe accadere in Italia. Ma la norma è stata cancellata, quindi e mi pare quindi che al momento abbiamo appunto accantonato anche questa ipotesi. In realtà poi l'amministratore delegato del gruppo, Brian Chesky, intervistato dal Financial Times, ha detto che l'Italia non sarebbe tra i potenziali paesi a rischio contenzioso. E quindi, insomma, potremmo stare tranquilli. Non lo so, detto questo, noi stamattina abbiamo voluto fare un po' un commento su tutto ciò che attiene, come vi dicevo, all'affitto transitorio con un'amica di cuore Denari, che è Isabella Tulipano, responsabile comunicazione di Solo Affitti. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Devo dire soloaffitti.it.com in realtà? Soloaffitti, non solo, nuovo, basta benissimo. Così. Allora, 800 24 00 24, il numero verde a disposizione dei nostri ascoltatori che come sempre possono chiamarci. Allora intanto chiediamo stamattina: avete pensato di affittare la vostra casa o alcune stanze per brevi periodi? Vi siete organizzati con Airbnb? Vi siete posti il problema di dichiarare il reddito aggiuntivo che ne proveniva? In che modo l'avete fatto? Ce lo raccontate voi, visto che quale interpretazioni sulla questione sono le più disparate. Noi abbiamo ieri contattato anche Airbnb, volevamo il country manager italiano che ci venisse un po' a raccontare la situazione e niente, non ci hanno proprio risposto picche, per cui niente da fare. Vabbè, non sono stati tanto affettuosi con alla noi. Prochain. Va bene. Allora, la norma Airbnb si propone di regolare il mercato degli affitti brevi in strutture, tra virgolette, extra alberghiere da parte di privati o di intermediari online. Nei giorni scorsi, appunto, come vi anticipavo, la Commissione Finanze della Camera aveva approvato questo emendamento del PD alla legge di bilancio che avrebbe previsto la cedolare secca al 21% per questo tipo di attività, ma non solo, veniva prevista anche l'istituzione di un apposito registro unico nazionale di privati da istituire presso l'Agenzia delle Entrate. Veniva prevista anche una clausola anti-evasione con la responsabilità in solido sul pagamento delle tasse da parte del privato e dell'intermediario, ma insomma tutto questo ha fatto puff, non abbiamo sparito più nulla. Ma l'obiettivo era quello di favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo. Tulipano, è un mercato trasparente o no? Insomma, allora diciamo che la questione è annosa e sicuramente precede anche l'arrivo di Airbnb, esatto, in Italia, perché è un po' l'abitudine di affittare anche solo per un breve periodo, che sia il mese, i due mesi d'estate, la seconda casa al mare nel momento in cui non la utilizzo direttamente, insomma diciamo che è un'abitudine abbastanza diffusa in Italia, considerando che sono tanti i proprietari anche di seconde case nelle località turistiche. Questi redditi sono quelli che sfuggono tranquillamente, se vogliamo così dire, al fisco. Perché? Perché per contratti di durata inferiore a 30 giorni non vige l'obbligo di registrazione, per cui io non sono obbligato ad andare a registrare questo contratto, e la registrazione di un contratto avviene proprio presso l'Agenzia delle Entrate, quindi insomma vado a dire al fisco che percepisco mensilmente un canone d'affitto, questo avviene nei contratti residenziali. In questi contratti brevi io non ho l'obbligo di registrazione, quindi quello che percepisco rimane un accordo tra me e il turista a cui io ho affittato questo immobile, e quindi chiaramente insomma diciamoci che posso farci del nero con questo, non che io sia autorizzato, insomma, no. Ridevo della battuta fatta prima sul nero da denunciare, cioè ovvio che non è che lo Stato mi dice che io questi redditi non li debba denunciare, devo semplicemente denunciarli tutti insieme nel momento in cui vado a fare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno, certo, in cui ho affittato l'immobile. Il problema è capire che certificazione tu puoi rilasciare nel momento in cui affitti per una durata inferiore appunto al mese una stanza o un'abitazione, perché se non c'è l'obbligo di registrazione appunto del contratto all'Agenzia delle Entrate, come si gestisce, sì, questa relazione con l'affittuario? Esatto, se vogliamo, tra l'altro in un sito come Airbnb di solito questo passaggio di denaro avviene, esatto, anche in una maniera più trasparente. Esattamente. Diciamo. È quello che fa notare anche un nostro ascoltatore. Esattamente, infatti poi ci saremmo arrivati. Esatto, quindi... perché a quel punto, cioè, loro mi danno sul mio conto che io ho indicato Airbnb, mi ridanno comunque la parte tolta, insomma, la loro provvigione, quella che effettivamente il turista ha pagato. Per cui da un controllo incrociato su quelli che sono il mio conto personale, effettivamente ne ricavo, insomma, un reddito che io devo andare a dichiarare. Tra l'altro, questa novità di inserire la cedolare secca sui redditi da locazione, insomma, non è una novità anche sui redditi da locazione turistica. Io posso applicare la cedolare secca al 21%, quindi anche senza questa normativa fatta appositamente per Airbnb, in realtà è una possibilità già data al contribuente che effettivamente affitta una collocazione turistica. Per cui diciamo che è più facile fare del nero proprio su quelli che sono i contratti fatti direttamente dal proprietario senza alcun tipo di intermediario, che sia Airbnb, che sia un altro sito o che sia la classica agenzia immobiliare, fatti direttamente in nero, insomma, tra proprietario e turista, la cosa sembra di più facile gestione, tra l'altro, non c'è una normativa. Tra l'altro, sì, certo, sul sito di Airbnb, se proprio dobbiamo essere precisi, c'è tutta una serie di informazioni legate alla, come dire, per esempio al canone che un affittuario chiede, e Airbnb suggerisce praticamente alle persone che mettono ovviamente disponibili sul sito le loro abitazioni e le loro stanze di rendere anche molto trasparente il prezzo. Se devono pagare a livello locale una determinata tassa su questo affitto, suggeriscono all'affittuario di comunicare a chi affitta lo spezzettamento del prezzo pattuito. Quindi mi paghi, che ne so, 100 euro per l'affitto, più mi dai 20 euro anche perché io devo pagare questa tassa. Quindi chiedono di essere molto espliciti in questo senso, lo suggeriscono naturalmente proprio per far funzionare bene anche il rapporto con tutte le persone che naturalmente vanno in queste abitazioni. Allora, andando invece proprio al tema degli affitti transitori, Tulipano, ci sono delle novità, perché proprio appena un mese fa è stata stipulata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nuova convenzione nazionale fra le associazioni maggiormente rappresentative di proprietari ed inquilini. Questa nuova convenzione prevede proprio, tra le novità principali, una modifica della durata dei contratti transitori. Allora, tutto quel ragionamento che ci ha fatto prima sul limite minimo di un mese, cambia? Esatto, cambia notevolmente, perché per adesso tutti quelli che sono i contratti brevi non legati ad esigenze turistiche erano un po' in un limbo, se così vogliamo dire. Se io ho bisogno di un immobile, per esempio, per una settimana perché devo assistere mio padre che sta facendo delle cure in ospedale, ecco, io potevo andare in affitto, ma diciamo che dovevo rivolgermi comunque a una struttura extra alberghiera, che fosse un di affittacamere, perché il contratto transitorio, quello classico, quindi gestito direttamente o dal proprietario o dall'agenzia immobiliare, aveva una durata minima di un mese. Questa convenzione andrebbe a modificare proprio la durata dei contratti transitori, non ponendo di fatto questo limite minimo, quindi il massimo rimane sempre di 18 mesi per poter considerare un contratto transitorio e non un contratto stabile, ma il limite minimo verrebbe a questo punto eliminato, per cui anche un contratto di 3 giorni, 4 giorni, una settimana, 15 giorni potrebbe rientrare all'interno di questa casistica. Quindi il fatto è che prima non c'era il limite superiore. Sì, cioè non c'era esatto il limite inferiore, quello minimo, quello superiore di 18 mesi rimane e permane anche in questo caso. Allora, quindi questa modifica di cui stiamo parlando stamattina stabilisce per i contratti transitori una durata non superiore a 18 mesi che già esisteva? Sì. Eliminando il limite minimo di un mese, perfetto. Esattamente. E dal punto di vista fiscale, appunto, questi contratti transitori come vengono disciplinati? Insomma, il tema è l'obbligo di registrazione, sempre la discriminante? Esatto, rimarrà inteso appunto che il contratto transitorio di durata non superiore a 30 giorni rimane, diciamo, in qualche modo non obbligato a essere registrato, quindi il limite dei 30 giorni non viene modificato, perché ci sia obbligatoriamente la registrazione, io devo avere un contratto di almeno 30 giorni. Certo. Senta, quali sono i contratti, tra virgolette, transitori più diffusi? Riguardano, che ne so, professionisti che magari viaggiano molto per lavoro e hanno bisogno di stabilirsi solo temporaneamente in certe città, oppure perché anche lo studente non so se possa essere identificato nelle, in questa casistica, esatto, perché comunque magari per l'università sta un po' di più, e qua vabbè dovremmo aprire in realtà un'altra parentesi che abbiamo già affrontato con Isabella Tulipano e non la aprirei. Appunto, qual è, anche secondo le statistiche che avete voi lì in solo affitti, Tulipano, i contratti transitori più diffusi riguardano quali parti? Allora, riguardano sicuramente i professionisti e tra l'altro nell'ultimo anno abbiamo visto proprio una migrazione con tutti i trasfertisti, insegnanti che sono stati spostati dal sud al nord e che quindi sicuramente hanno preso un contratto, insomma, l'affitto di un immobile con un contratto transitorio magari di un anno legato proprio, diciamo, a quello che poteva essere il contratto di lavoro, per cui contratto di lavoro e contratto d'affitto spesso si fanno coincidere, quindi questa è la motivazione principale di transitorietà a carico dell'inquilino. Perché bisogna dire che un contratto transitorio può essere stipulato anche se la motivazione di transitorietà è legata al proprietario, ovvero se io so che tra un anno ho intenzione di vendere quell'immobile, io proprietario non voglio impegnarmi per 4 anni perché insomma ne ho bisogno esattamente tra un anno di avere liquidità, certo, e quindi di vendere il mio appartamento. Anche questa è una motivazione molto utilizzata, dove appunto la transitorietà è un'esigenza a questo punto della proprietà e non dell'inquilino. Chiarissimo. Senta, esistono dei limiti per quello che riguarda anche i canoni di locazione, delle informazioni da dare ai nostri ascoltatori, appunto dei parametri di riferimento oltre i quali non andare, insomma, che è corretto conoscere? Esatto, diciamo che i contratti transitori nei comuni ad alta densità abitativa, quindi tutti quelli che sono i capoluoghi di provincia e di regione, quindi nelle grandi città metropolitane, devono praticamente avere il canone legato a quelli che sono gli accordi territoriali, quindi come se fossero un 3+2 per intenderci, con la possibilità di una maggiorazione del 20%, quindi hanno un canone concordato che dovrebbe essere più basso di quello del libero mercato e quindi costituire, diciamo, l'ostacolo proliferare di questi contratti rispetto ai classici contratti residenziali più lunghi, che a quel punto insomma vanno a soddisfare l'esigenza di abitazione principale, che rimane l'esigenza principale per cui un inquilino prende in affitto un immobile. No, stavo guardando intanto tutte quelle informazioni che mi ha mandato prima Tulipano sulla modifica della durata dei contratti transitori, appunto le esigenze di transitorietà che in genere sono tipiche della persona che affitta l'abitazione, esatto, e quindi il proprietario. Nel caso in cui l'affittuario abbia bisogno di rinnovare un contratto transitorio, lo può fare, lo può chiedere, però deve stipulare un contratto, un secondo contratto in un secondo momento? Allora, diciamo che la normativa direbbe che il contratto transitorio non è rinnovabile. Alla stessa persona. Alla stessa che persona. Che ne ha già usufruito una volta. Esatto, esatto. Detto perché, questo. Insomma, detto questo. Diventata quell'esigenza vuol dire che insomma non c'è più una motivazione transitoria, ma si passa a una motivazione stabile. Detta questa, c'erano state un paio di sentenze per cui l'unico caso in cui è possibile rinnovare un contratto transitorio è quello, come dicevamo prima, del professionista. Cioè se io mi leggo per un anno perché ho in questo momento un contratto di lavoro di un anno a tempo determinato e poi questo contratto mi viene rinnovato a mia volta per un altro anno a tempo determinato, allora potrei a questo punto ristipulare un contratto transitorio per la stessa durata legandolo al nuovo contratto di lavoro. Le altre motivazioni non sarebbero valide, quindi rinnovare un contratto transitorio comporta il rischio, parlo sempre di rischio, possibile che l'inquilino possa impugnare quel contratto e trasformarlo in un, certo, classico contratto di 4 anni. Senta, allora facciamo un po' una sintesi della situazione. Io ho un monolocale microscopico a Milano, cosa che non ho in via del tutto ipotetica, ma magari potrebbe anche essere un buon investimento da fare, visto che un pochino i prezzi stanno scendendo, anche se Nicoletta non è tanto d'accordo, perché lei dice no, tutte le proprietà con tutta la fiscalità e la confusione fiscale che c'è più che altro, sì, perché se fosse chiara per un tot di anni non lo sa, no? Io ho il monolocale libero a Milano e voglio affittarlo quando ad esempio ci sono le settimane calde a Milano, la Fashion Week, le fiere importanti a Roe, e quindi come posso fare, a chi devo dirlo, che tasse ci pago, il vademecum proprio per le locazioni brevissime, Tulipano? Allora, a questo punto posso farlo finché non passa, insomma, se questa convenzione, facciamo finta, insomma, non passi. Ah già, perché la convenzione di cui abbiamo parlato fino a questo momento in realtà è anche questa un'altra questione ancora ipotetica che deve esatto, avere il via libera del Parlamento, giusto? Esatto, esatto. Quindi diciamo che al momento potrei utilizzare comunque un contratto turistico, che è un contratto libero, quindi non vincolato dalla durata anche in questo caso. E posso dire che il turista che viene a Milano per la settimana della moda, insomma, è sicuramente lì per esigenze non stabili, ma di turismo, insomma, restringendo a anche la moda può portare turismo. Quindi faccio un contratto della durata di una settimana, 10 giorni, insomma quella che è l'esigenza. Stipulo un contratto, una scrittura privata tra me e l'inquilino, questo proprio perché comunque all'interno di questo contratto io vado a indicare una serie di pattuizioni che mi servono proprio per chiarezza e trasparenza sia mia sia dell'inquilino, mi faccio pagare quello che è la quota che abbiamo stabilito e lascio una ricevuta di questo con una marca da bollo di 2 euro, quindi la classica ricevuta che si fa, oppure se mi fanno un bonifico ovviamente il bonifico vale come ricevuta. Alla fine, quando l'anno prossimo andrò a fare la mia dichiarazione dei redditi, io indicherò nel rigo in cui indico il fatto di possedere un immobile il fatto che questo immobile sia stato affittato, per farò la somma di tutti i giorni in cui ho affittato l'immobile e la somma di tutte quelle che sono il guadagno che io ho ottenuto su quell'immobile, andando poi a decidere se su quel reddito sommario che io ho percepito applicare l'IRPEF o la cedolare secca. La cedolare secca. Non esiste nessuna indicazione precisa sulla modalità con cui il pagamento di questi canoni deve essere effettuato. Esiste qualcuno che dice lo devi fare con transazione tramite intermediario, con bonifico bancario, oppure il limite che c'è sull'utilizzo dei contanti. Quindi appunto fino ai 3.000 euro potrai percepire anche i contanti. Poi oltre sicuramente non potrei. È lì che l'ambito diventa un po' più grigio. Chiuso la parentesi. Anzi no, ce la riapre Mario da Lucca. Va Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Veloce allora, perché stiamo andando in chiusura. Mario, grazie. Sì. Io ho un'esperienza con TUI, agenzia tedesca, e con Airbnb, perché ho diverse case. Ecco, allora, però, Mario, lei è proprio un ottimo partito. Allora, adesso la corteggiamo un po', va? Perfetto. Ci dica. Allora, ascoltate, dunque, per quanto riguarda le somme registrate dell'Airbnb, esiste una scrivania, perciò esiste proprio un estratto conto. Sì. Quindi uno a fine anno porta al commercialista l'estratto conto e paga il 43% di tassi. Il 21% si applica, per quanto ne so io, e che mi ha detto il mio commercialista, solamente su transazioni privato-privato. Mentre se c'è una transazione fra agenzia e privato si applica il 43%. Quindi Airbnb viene trattata alla stregua di un'agenzia. È un'agenzia. Eh sì. Il problema del nero. Allora, il problema del nero funziona così. Siccome fanno dei bonifici dall'estero, sono bonifici sotto i 3.000 euro, volendo uno, se è un privato, rischia e non li denuncia. Il problema è quello lì. E se addirittura ha un conto estero, non denuncio nulla perché nessuno mi può trovare. Vabbè, sono questo però delle sofisticate. Ma invece per la questione in Germania, Mario, come le funziona? Per la TUI come agenzia è strepitosa, perché loro prendono, Airbnb prende il 6% di percentuale, il TUI prende il 25%, però il TUI fa tutto, ti dice il giorno stesso viene questa famiglia di tedeschi, ti dice quante persone sono, persino il cane. Però vuole determinate cose, perciò vuole il wifi, la TV tedesca, vabbè, cioè, in realtà quello tutte anche queste cose normali. E io devo dire la verità, il turista tedesco arriva fino alla porta, quello di Airbnb invece è un po' più meno sofisticato. Vabbè, allora, e miglioreranno pure lì, insomma faranno dei salti di qualità, Mario, è un mondo che sta crescendo, si sta evolvendo e si sta adeguando anche un po' a tutte le realtà che serve. Ne torneremo a parlare, intanto oggi abbiamo appreso dell'esistenza di quest'altro spread fra Italia e Germania, anche appunto nelle locazioni più o meno brevi. Isabella Tulipano, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Nel frattempo aveva anche chiamato Maurizio da Milano. È vero che devi chiedere prima in comune l'autorizzazione ad affittare? Ho preso una multa molto salata per non averlo fatto in 10 secondi. Tulipano, la legge regionale sul turismo lo prevede, sì. Benissimo, quindi informatevi molto dettagliatamente sulla disciplina regionale appunto che regola questo tipo di affitti. Grazie ad Isabella Tulipano, speriamo di aver soddisfatto Maurizio anche se non l'abbiamo fatto passare in diretta. Vado rapidamente a raccontarvi la giornata di borsa, che è molto positiva, quindi la raccontiamo volentieri. E poi torniamo insieme e parliamo di questo famoso e diffuso tunnel carpale. Adesso abbiamo visto che si pagherà il ticket, si può prevenire, quali sono i movimenti, se ci sono, che possono slatentizzarlo, quali sono le cause e soprattutto come si risolve. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Questo è il signor Pollice, grassoccio e posa piano. Questo è il signor Indice, che segna da lontano. Medio si presenta di massima statura. Anulare porta anelli su misura. Mignolo, guardate che buffo, che piccino. È grande come il nasino del mio bel bambino. E noi abbiamo iniziato con una filastrocca letta dalla nostra brava e bella Alessandra De Luca. Esatto, non sappiamo se sia più bella o brava. Tutte e due, tutte e due. 50 e 50, 100 e 100. C'è sempre quei capelli che io invidio tantissimo, bellissimi. Gli occhi blu, va bene. Comunque, ciao Ale. Comunque, perché questa filastrocca sulle dita? Perché, come anticipato, di dita parliamo in questa ultima parte della trasmissione. In particolare parliamo del pollice, dell'indice, del medio. Esageriamo, Deborah, anche di una parte dell'anulare. Lasciamo fuori il mignolo non solo perché è il più piccino, ma perché potrebbe portarci fuori strada. Perché? Perché sono infatti le prime dita della mano che possono darci del filo da torcere quando iniziano a formicolare, ad addormentarsi o a diventare dolenti. È un dolore che arriva spesso come la Befana di notte, ma talvolta talmente forte da farci svegliare, sì, farci perdere il sonno. Vero. Il problema è molto diffuso, tanto che sono certa che qualcuno di voi all'ascolto lo conosce bene. Nel caso chiamateci all'800 24 00 24. Parliamo del tunnel carpale. Ci sono buone nuove in arrivo e soprattutto abbiamo il piacere di avere con noi un grande esperto, il professor Giorgio Crucu, direttore del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria all'Università di Roma La Sapienza e presidente di un congresso che fa proprio il caso nostro, si è appena proprio concluso a Venezia, sulle neuropatie periferiche, a cui appartiene anche il tunnel carpale. Buongiorno professore, bentornato e grazie per essere con noi. Buongiorno Nicoletta, mi fa molto piacere di essere con lei. Allora professore, i sintomi che ho descritto e soprattutto la sede in cui si manifestano le prime tre dita della mano ci portano dritte a dritte a parlare del tunnel carpale di cui vi siete occupati anche voi al congresso di Venezia, dove avete tra l'altro presentato i dati preliminari di uno studio clinico che sono molto interessanti e promettenti, quindi dico agli amici di stare lì, ma di cui parleremo tra poco. Invece vorrei che lei ci aiutasse a capire se il problema deriva da una sorta di predisposizione che viene slatentizzata da una eccessiva sollecitazione della mano, se invece sono alcuni movimenti ripetuti, ad esempio per anni abbiamo dato la colpa al mouse, poi adesso invece sembra che il mouse non c'entri più niente. Professore, da che cosa partiamo? Perché il tunnel carpale? Beh, io lo dividerei in due fasi. Una è, come appunto lei accennava, la predisposizione, nel senso che fisiologicamente nel nostro corpo ci sono delle strettoie anatomiche e tra queste c'è questo tunnel carpale in cui il nervo mediano, che è responsabile della sensibilità delle dita, come lei ha già anticipato, si deve tuffare. È una strettoia che sotto ha le ossa del carpo, in mezzo ci sono le guaine tendine, sopra c'è una tela trasversa che schiaccia e quindi si parte con una situazione angusta e naturalmente ci sono persone con un tunnel un po' più largo e persone con un tunnel più angusto. Si nasce insomma. Sì, sì. È come le gambe dritte e le gambe storte. Questa è la ragione del perché poi di solito diventa sempre bilaterale poi il tunnel carpale. Però poi a slatentizzare la sintomatologia e a far precipitare le cose sono vari eventi, alcuni in primis professionali. Lei mi ha dato la dritta del mouse e mi fa molto piacere poter dire che sono uscite recentemente alcune meta-analisi molto accurate basate sull'EBM, cioè sull'Evidence Based Medicine, e quindi affidabili, che dimostrano che non c'è alcuna associazione tra il manifestarsi della sindrome del tunnel carpale e il lavoro con il mouse o con la tastiera. Quindi questo mouseizzate come quanto volete il tunnel carpale, non c'entra, sì, con il mouse. È ovvio che se uno parte con un tunnel molto più stretto, certo, per lui il fattore di rischio è maggiore. In generale le attività professionali che hanno poi una prevalenza di tunnel carpale molto maggiore sono quelle in cui professionalmente si è costretti a esercitare forza ripetutamente in posizioni di flesso, estensione o torsione della mano. Per esempio, l'esempio massimo sono quelli che usano il martello pneumatico. Oppure una volta le pastaie che lavoravano a mano tutto il giorno avanti e indietro a lavorare la pasta. Non ce le scoraggi come? Per carità, professore, perché oggi come? Abbiamo... No, Deborah diceva di non scoraggiarle. Le sfogline. No, vabbè, ma insomma è un conto se uno si fa a casa una volta la pasta, si prepara gli gnocchi o quello che vuole. È un conto se tu tutti i giorni professionalmente sei senta costretto... Senta un po', professore, sì. Senta cosa ci scrive Luca. Luca, ho lavorato tanti anni in hotel, molte cameriere ai piani soffrivano di questa patologia, tirare il letto e così via, il lavoro di ufficio non è faticoso come quello invece più manuale. Ma Luca ci dà un indizio importante, a soffrirne sono soprattutto le donne, professor Crucu. Sì, le donne, perché l'altro aspetto che aumenta la prevalenza del tunnel carpale sono alcune malattie, alcuni fattori, alcune condizioni, e uno è quello di essere femmina, che non è una malattia, però insomma, non è una malattia. Si potrebbe discutere. E diciamo che la prevalenza nella popolazione, le stime più accettabili sono attorno al 5%, e invece nella donna questa prevalenza è molto superiore, il rapporto tra maschi e femmine è molto variabile a seconda di come è stata fatta l'indagine, perché alcune sono indagini postali in cui il paziente si fa la diagnosi da solo. Ecco, altre ma sono... ha bisogno di una diagnosi, mi scusi se la interrompo, professore Davide da Verona che ci scrive: mi sveglio spesso la notte con indice medio anulare informicolati, quindi che formicolano. Mi basta premermi e massaggiarmi l'avambraccio per un minuto e passa tutto. Tunnel carpale? Ci mette il punto interrogativo. Professore, lei che dice? Dico che la prima parte mi va bene, la seconda, che si deve massaggiare l'avambraccio, un po' meno. Probabilmente mentre si massaggia l'avambraccio fa anche dei piccoli movimenti del polso, che è il segno caratteristico che molti pazienti ti riferiscono, e quando si svegliano con questa mano addormentata, formicolante o dolente, loro scuotono un pochettino la mano morbidamente e il disturbo gli va via. Questo naturalmente vale solo all'inizio della sindrome, quando ancora le fibre del nervo sono solo molto irritabili e non sono ancora degenerate. Soffrono molto, e ci spiega, ci invita a dirlo un ascoltatore, di tunnel carpale anche i restauratori e anche gli orafi, quindi tutte persone che lavorano molto di fino anche con le mani. Professore, rapidamente, quali sono gli esami che permettono al medico di arrivare ad una diagnosi, e poi parliamo subito di quella novità di cui ho accennato? L'esame principe che va fatto senz'altro è l'esame elettroneurografico, che è una specie di elettromiografia senza aghi, tutto con elettro di superficie. Qui da noi ci si mette meno di 10 minuti e si misura l'ampiezza del potenziale sensitivo stimolando a valle e registrando a monte del polso. Si vede che anche ai primi segni, se c'è o non c'è un rallentamento della conduzione del nervo mediano. Quindi va richiesto un esame elettroneurografico, sembra quello scioglilingua di cui parlavamo ieri, Deborah. Al vostro congresso, professore, avete presentato i dati preliminari di questo studio clinico sull'efficacia della LAC, che è una sostanza naturale che è già presente nell'organismo e ha un'azione diversa da tutti gli altri farmaci analgesici e che risulta molto promettente nel trattamento del tunnel carpale. Ci racconta quali speranze, se è già a disposizione, che cosa si può fare? Il farmaco è già a disposizione, perché non è un nuovo farmaco, è una vecchia conoscenza. Siccome appunto è una sostanza naturale, rientra tra gli integratori. Però adesso sono uscite delle novità, per cui si sono riaperti gli studi al riguardo. E il farmaco si chiama levoacetilcarnitina. Io posso dire solamente, per essere sincero, i risultati parziali, perché non ho ancora i dati conclusivi, però i risultati parziali a oltre il 50% dei pazienti sono talmente buoni che sono praticamente sicuro che verranno confermati a conclusione dello studio. Questa sostanza ha due parti, acetil e carnitina. La carnitina è un aminoacido che svolge una importante produzione energetica, cioè aiuta i mitocondri, che sono gli organelli che producono energia, e quindi svolge un'azione neuroprotettiva, cioè fa bene alle fibre nervose. Mentre questa acetilcarnitina nel sistema nervoso centrale invece è un donatore di acetili, e con un meccanismo troppo complicato anche per me, perché c'è di mezzo l'epigenetica e i recettori metabotropi del glutammato, no, una roba per tremenda. Carità, sembrano parolacce, esatto. Ma che cosa fa questa acetil? Svolge un'azione analgesica centrale, cioè interferisce con la trasmissione del segnale dolorifico e quindi si comporta come fosse un analgesico. Quindi una protegge il nervo, antinfiammatoria. Professore, una protegge il nervo e l'altra in qualche modo toglie il dolore. Esatto. Allora lei però ci deve promettere che quando avrà tutti gli altri studi, quelli definitivi di questo studio, torna. Che Nicoletta, noi la chiappiamo. Io so che sono suo fedelissimo. Di tanti giornalisti che ho conosciuto, devo dire che lei è di gran lunga la più simpatica. Grazie, grazie. Arrivederci. Allora, buona giornata, professore. Grazie, arrivederci. Andiamo. Quello che sentire. Dovevo dire l'ho detto, adesso posso... andiamo mi è diventata rosso scarlatto come il vestito. Sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Cuore e denari. Se sei un amico ti stringo la mano. Laura me la mette, ce la mette sempre, sì. Perché noi balliamo su questa. Noi vero? Ormai le sappiamo tutte, le sappiamo tutte. Formicolio, dolore, indolenzimento, sensazione di perdita di forza. Stiamo parlando del tunnel carpale. Abbiamo aperto col professor Crucco. Lo facciamo perché, come abbiamo anticipato con la collega Barbara Gobbi, con i nuovi livelli essenziali di assistenza, ovvero le cure e le prestazioni garantite ai cittadini gratuitamente o con partecipazione alla spesa, varie prestazioni di piccola chirurgia finora gratuite diventeranno a pagamento. E questo ci ha dato lo spunto per tornare a parlare di tunnel carpale. Se il problema persiste, il professor Crucco ci ha dato le novità, ma se il problema persiste, nonostante tutto, probabilmente è necessario percorrere un'altra strada, quella chirurgica, ahimè. È in linea con noi, è tornata a trovarci una nostra amica, la dottoressa Simonetta Odella, chirurgo della mano al Gaetano Pini di Milano. Buongiorno dottoressa Odella. Nicoletta, buongiorno, come sta? Bene, grazie. Per adesso le mani funzionano. Allora, molto bene. Dottoressa, dal chirurgo non si va mai a cuor leggero, della serie se si può evitare si evita, ma in alcuni casi, quando la situazione si fa critica e le terapie falliscono, non resta che affidarsi a mani esperte. E sottolineo esperte perché voglio ricordare che il chirurgo ha la mano, volevo dire, ha un chirurgo dedicato, perché è a tutti gli effetti un organo. È vero, la mano sicuramente è la parte del nostro corpo che riceve la maggiore innervazione e che ha la possibilità di compiere i gesti più fini di tutto il nostro scheletro, e quindi insomma si merita un medico dedicato completamente a lei. E lei infatti è tutta dedicata alla mano, ma e quindi è la persona più indicata per raccontarci quali sono i sintomi che ci fanno capire che il nostro tunnel carpale richiede l'intervento del chirurgo. Ma dunque abbiamo una fase di passaggio, una fase in cui, quando viene eseguito l'intervento, si ha la possibilità di recuperare poi completamente la sensibilità periferica nella maggior parte dei casi. Sappiamo che esordisce con un dolore, un formicolio che ci sveglia durante la notte, ma nelle fasi iniziali della patologia questo formicolio rimane circoscritto appunto alle ore notturne. Quando abbiamo il formicolio durante il giorno, saltuariamente, durante dei gesti quotidiani, che possono essere anche tenere il telefono vicino all'orecchio, quei gesti che ci fanno piegare il polso, Quando compare il formicolio, allora quello è il momento giusto per intervenire chirurgicamente. Quindi se ovviamente il formicolio appare di giorno, questo è un segno chiaro che bisogna... La patologia sta peggiorando. Ovviamente devono essere fatte delle indagini, certo. Ovviamente deve essere eseguita un'elettromiografia, deve essere eseguita un'indagine con il chirurgo della mano prima di arrivare ad una sala operatoria. Però diciamo che come linea spartiacque per un paziente è riscontrare il formicolio durante il giorno. Quando inizia durante il giorno anche in modo saltuario, ecco, quello forse è il momento di recarsi da un chirurgo. Quindi formicolio non vuol dire quando le mani prudono, perché ci viene un po' di nervosino. Gabriele da Prato, buongiorno. Abbiamo detto un problema buongiorno. Da donne, che cioè, il tunnel carpale colpisce prevalentemente le donne, e c'è stata quasi un'insurrezione. I nostri ascoltatori sì. Uomini ci stanno scrivendo. Anch'io uomo, anch'io single, che poi non abbiamo detto sposati o single, insomma anche i maschi hanno i polsi, anche hanno i maschi ragione. Possono soffrire di tunnel carpale. Venite qua. Allora Gabriele, buongiorno da Prato. Buongiorno a voi. Allora io praticamente ho fatto l'elettromiografia e risulta praticamente ai tunnel carpali. Praticamente la notte, come diceva prima la professoressa, mi sveglio per il dolore. Esatto. Ma il formicolio, Gabriele, viene anche al mattino? Al mattino appena alzato? Mattino nel corso della giornata. Sì, al mattino e al pomeriggio. Sulla mano destra, soprattutto. Gabriele, la sua domanda è... Mi devo operare oppure no? Perché io ho già fatto varie visite e mi stanno dicendo, guarda, per me sì, aspetta fino a quando non hai maggiori problemi. Solo per capire, avendo 46 certo. anni, chiaramente voglio capire un attimino per andare nel migliore dei modi avanti. Certo, allora dottoressa Odella, Gabriele, maschio, nonostante tutto, maschio. Cioè sì, dipende da che lavoro fa, se un lavoratore con un gesto manuale ripetuto, anche gli uomini effettivamente possono sviluppare. Assicuratore, quindi posso scrivere o guidare la macchina. Allora ormai sappiamo tutto di lui, lei che cosa suggerisce? Quando il formicolio appare al mattino, Deborah, tu? Perché anche noi vogliamo dire la nostra. Quante polizze stipulerà in questo periodo? Quante firme farà? Ma insomma le fanno i clienti più che lui, un po' meno. Insomma, se correliamo il dato clinico, cioè col formicolio presente di notte saltuariamente di giorno ed un esame elettromiografico positivo, quindi con un dato positivo, effettivamente forse potrebbe essere il momento giusto per intervenire. Se si, non in modo urgente, non c'è un'urgenza assoluta, ma se si aspetta troppo tempo, si rischia poi di intervenire chirurgicamente, liberare il nervo dalla compressione e non avere un recupero della sensibilità periferica completo. Quindi forse se effettivamente anche l'indagine elettromiografica è positiva e non ci sono delle concause a livello del rachide cervicale, potrebbe essere indicato liberare questo nervo. Dottoressa Odella, 30 secondi per dire, tra l'altro, per rassicurare, si tratta di una chirurgia molto gentile. È una chirurgia che cerca di essere sempre più gentile, mini-invasiva, quindi con delle incisioni soprattutto nei pazienti giovani di ridotte dimensioni, di un paio di centimetri, a seconda poi dell'età del paziente e delle eventuali patologie associate a questo tipo di problema. Comunque sì, cerchiamo di essere sempre più gentili, addirittura c'è una tecnica endoscopica dove si fa un unico piccolo taglietto, si entra dentro il canale carpale con una piccola telecamera e con una lama retraente si seziona il legamento che intrappola questo nervo. Dottoressa Odella, grazie per essere stato con noi, chiudiamo quindi in bellezza, grazie, le auguriamo una buona giornata, noi torniamo come sempre domani alle 10:30. Assolutamente sì, puntualissime, vi aspettiamo.